Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Mira Lucchetti, Isotta Scenna in redazione a confezionare con me questa puntata, Fabio Cantadori in regia. Anche questa puntata potete commentarla, potete porre domande, questioni o potete criticare via Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, via Twitter Nessun Luogo 24 e poi gli sms 349-238-6666 oppure la mail se volete dilungarvi nei vostri commenti, nessunluogo@radio24.it. In questa puntata speciale di Ferragosto ci prendiamo una pausa da quella che è la strettissima attualità, anche drammatica in primis, delle vicende egiziane. E ci prendiamo una pausa perché voglio raccontarvi una guerra che si combatte da decenni per una risorsa assai preziosa. Una guerra silenziosa combattuta da multinazionali, trafficanti senza scrupoli, povera manovalanza e anche attivisti agguerriti. Oggi a Nessun Luogo Lontano vi racconto la guerra del legno. E per raccontarvi questa guerra vi porto innanzitutto in Brasile, precisamente a Manaus, dove c'è Chiara Campione, responsabile della campagna foreste di Greenpeace. Chiara, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, Chiara Campione, ti abbiamo raggiunto proprio in Amazzonia, non è un caso, il grande cuore verde del nostro pianeta, forse la foresta più grande al mondo, ma correggimi se sbaglio. Sì, è decisamente la foresta più grande al mondo e il polmone più importante per il nostro pianeta. Tu sei lì per Greenpeace per studiare, per acquisire dati. E partiamo dai dati, perché nel cuore di questa puntata di Nessun Luogo Lontano c'è una risorsa, una materia prima che forse la stragrande maggioranza degli ascoltatori e delle ascoltatrici non considera come una risorsa preziosa, ed è il legno. Noi tutti si pensa, quando si parla di traffico illegale, si pensa al coltan, ai diamanti, all'oro, al petrolio, e invece il legno. Quanto è prezioso il legno e perché, Chiara? Ma il legno è prezioso intanto sicuramente da un punto di vista commerciale, tutti gli ascoltatori che si saranno trovati almeno una volta a dover scegliere un legno per il parquet di casa propria o per degli infissi sanno bene che ci sono delle essenze arboree che possono costare fino a 500-600 euro al metro quadrato, ma il vero valore, che è quello che generalmente si sconosce, è il valore ecologico che questo legno ha, perché il legno, prima di essere legno, è un albero all'interno di un ecosistema. In questo caso, come insomma dicevi tu, io in questo momento mi trovo in Amazzonia, quindi un ecosistema importante come una foresta tropicale, e purtroppo la deforestazione illegale e il commercio illegale del legno rappresenta tra il 15 e il 30% della silvicoltura nelle aree tropicali. Cioè, questo significa che su 10 tronchi di legno che vengono da un'area tropicale come l'Amazzonia, tra 3 e 4 sono stati tagliati illegalmente. Ecco Chiara, anche per restituire il valore della vostra battaglia e l'importanza di questa risorsa, cerchiamo di capire che cosa c'è in ballo. Non è solo una questione, una pura battaglia ecologista, perché sono in gioco grossissimi interessi e penso sia molto interessante valutarli dal punto di vista economico, cioè quanto vale il traffico illegale di legname, giusto per dare una dimensione di cifra. Ma c'è un rapporto che viene aggiornato ogni anno, che viene prodotto dall'Interpol insieme al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'UNEP, che è l'ultimo aggiornamento, è stato del marzo del 2013, quindi abbastanza recente, che ci dice che la quantità di denaro che viene generato dal commercio illegale del legno si aggira tra i 30 e i 100 miliardi di dollari all'anno, quindi è una stima, ma per avere un termine di riferimento pensiamo per esempio che 27 miliardi di dollari sono il prodotto interno lordo dell'Albania, quindi stiamo parlando di quantità di denaro. Cioè il commercio illegale del legno muove davvero quantità enormi di denaro, e quindi chiaramente genera degli interessi altissimi, non solo nelle multinazionali, ma nelle vere e proprie organizzazioni criminali, che sono sempre più organizzate per estrarre illegalmente il legno, che appunto l'Interpol paragona a delle strutture mafiose vere e proprie, perché utilizzano tutta una serie di sistemi, dal riciclaggio del denaro sporco all'hackeraggio dei siti governativi per mascherare i valori, insomma, commerciali del legno che esce ed entra da un paese, fino a, diciamo, i più classici, ahimè, metodi come le estorsioni, le ritorsioni e le minacce di morte, nonché l'omicidio di chi si oppone al taglio del legno illegale in paesi come l'Amazzonia, come il Congo o come l'Indonesia. Ecco, hai citato altri paesi che non sono solo l'Amazzonia. Prima di addentrarci in quello che è un po' l'organigramma, o se volete, quali giocatori sono in campo in questa partita a scacchi, in gioco c'è la salvaguardia dell'intero ecosistema, abbiamo fotografato tre grandi zone dove il commercio illegale, il traffico illegale di legname è un problema molto molto serio. In Camerun sono 6 le varietà pregiate di legno verso cui si rivolge l'estrazione mirata da parte di esportatori europei. I principali destinatari sono Francia, Belgio e Paesi Bassi. L'Italia è stata il primo importatore di legname tropicale dal Camerun per l'anno 2004, con circa 162.284 metri cubi segati. L'abbattimento illegale e distruttivo degli alberi costa ogni anno al governo e alle comunità del Camerun milioni di euro in entrate mancate. L'intrusione delle attività estrattive provoca perdite irreparabili negli equilibri delle pratiche tradizionali e delle economie locali e incrementa i problemi nei rapporti fra i vari gruppi etnici. I pigmei, infatti, stanno subendo un radicale cambiamento nel loro stile di vita, con violenze, episodi di razzismo, sfruttamento e disprezzo da parte degli altri gruppi etnici. In Madagascar, il business del legno pregiato riguarda l'ebano e il palissandro e vede la Cina in prima fila tra i paesi importatori. Con più di 20.000 ettari di foreste devastate all'interno di aree protette e oltre 100.000 alberi di legno pregiato abbattuti illegalmente ogni anno, il Madagascar si conferma terra di disboscamenti illegali e traffici clandestini di legname. Il costo di un container carico di legname spedito su navi cinesi, grazie ad una catena di complicità che coinvolge autorità politiche, economiche e istituzioni malgasce, si aggira sui $45.000, che sono una cifra assolutamente irrisoria se si considera il costo dei mobili, ad esempio letti al dettaglio, che vengono venduti da 650.000 fino a $1.000.000. Il mogano è invece considerato il vanto dell'Amazzonia, l'oro rosso del cosiddetto polmone del mondo, che si estende coi suoi 6 milioni di chilometri quadrati tra Brasile, che rappresenta il 59% del territorio complessivo, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela e le Guyane. Tra i legni più costosi al mondo, l'80% delle importazioni statunitensi del mogano proviene dal Perù, paese che nel 2011 è stato svelato da WikiLeaks avere il 70-90% di esportazioni illegali. Il governo peruviano avrebbe infatti abbattuto alberi al di fuori dei confini delle concessioni, favorito da documenti falsi e una corruzione dilagante. Questi contrabbandieri del legno sono inoltre favoriti dalle comunità indigene, che molto povere e poco istruite si accontentano di qualsiasi somma di denaro offerta loro, anche se serve a sradicare il loro stesso ambiente naturale. E abbiamo citato l'Amazzonia, torniamo lì a Manaus con Chiara Campione di Greenpeace. Allora Chiara, la nostra fotografia di questi tre hotspot in cui si pratica il commercio illegale di legname iniziava a tratteggiare quella che è questa filiera criminosa, questa rete criminale. Tu dicevi l'Interpol la chiama una vera e propria mafia che permette il traffico illegale. Perché una domanda che credo molti di noi si faranno è: ma com'è possibile trafficare il legno? Stiamo parlando di alberi, decine di metri, di giganteschi tronchi. E come si arriva a spostare grandi quantità di legname prezioso tra un continente e l'altro, tra un paese e l'altro? Ma in realtà ci sono tantissimi modi, solo l'Interpol ne ha identificati più di 30 per produrre, trafficare e vendere legname illegale. Quindi la prima, per esempio, è la falsificazione delle autorizzazioni al taglio, cioè le cosiddette concessioni a cui si faceva riferimento nel breve servizio che abbiamo ascoltato, oppure si deforesta un po' di più di quello che deve essere concesso, oppure appunto si violano i siti governativi per ottenere permessi per trasporti o volumi maggiori, si ricicla il legname illegale mischiandolo a quello legale. Sono tantissimi i modi che per commerciare legno illegale, sì. E che tra l'altro appunto un elemento fondamentale che i paesi in via di sviluppo da cui viene questo legname illegale dovrebbero considerare è proprio che tutto il legname che esce illegalmente dal paese è il legame che non paga le tasse, quindi sono mancati introiti, è una perdita quindi economica per il paese grandissima, perché il paese perde le risorse ma anche le tasse che andrebbero pagate per prelevare queste risorse. Ecco Chiara, dalle vostre ricerche, delle vostre indagini sul campo, quanto non dico tanto il consumatore finale, ma diciamo le grosse aziende, le grosse multinazionali che acquistano il legno, quindi i mercati finali, quanto sono consapevoli dell'esistenza o meno di un traffico illegale? Cioè, se il legno arriva ed è stato tagliato, è stato estratto illegalmente, quanta consapevolezza c'è da parte dell'acquirente? Ma nella mia esperienza, io ho lavorato per tanti anni alla campagna foreste, continuo a farlo in Italia, e tante volte noi abbiamo individuato dei carichi di legname illegale che arrivavano nei porti italiani e che riuscivamo anche a collegare a delle imprese o a delle multinazionali italiane che li acquistavano. Diciamo che fino a qualche tempo fa non esisteva una vera e propria legge che regolamentava l'ingresso del legno illegale in Europa e quindi anche in Italia, quindi i grandi acquirenti giocavano un po' a fare gli ignoranti, noi non lo sapevamo, sì. Oppure questo legno è arrivato con il certificato doganale che doveva avere e quindi per me è a posto. Noi riteniamo che il mercato chiaramente ha una grossissima responsabilità. Adesso finalmente, dopo tantissimi anni di lotte, non soltanto di organizzazioni come Greenpeace, ma insomma WWF e tantissime altre organizzazioni ambientaliste, esistono due regolamenti che si chiamano FLEGT e UTR, che sono insomma, come tutti gli acronimi, sembrano delle cose incomprensibili, ma sì. Che fondamentalmente sono due leggi, due regolamenti che definisce quello che è legale in termini di legno, quindi cosa può essere considerato legale e quando una partita di legno arriva in un porto europeo, e la seconda è invece un regolamento sanzionatorio vero e proprio, e stabilisce anche quali sono le pene pecuniarie che chi acquista il legno illegale deve pagare. Come sempre, diciamo, questo regolamento è stato approvato di recente, dal 3 marzo 2013, quindi sì. Possiamo dire che adesso esiste una legge. Il problema è che, come spesso accade, in Italia non è stato ancora definito il regime sanzionatorio, quindi se oggi arriva un carico di legno illegale, io potrò dire che quel legno è illegale, ma l'impresa non sa ancora, non sappiamo ancora quanto dovrà pagare in termini di danno ambientale e tutto quello, diciamo, che è derivato dall'estrazione di questo legno. La mafia dei trafficanti del legno, così un rapporto di Interpol che è nelle mani anche di Greenpeace, fotografa la criminalità organizzata che controlla appunto il traffico illegale di legname. La guerra segreta del legno, la guerra nascosta del legno, nella puntata di quest'oggi A Nessun Luogo È Lontano. Siamo con Chiara Campione di Greenpeace, in diretta da Manaus, Amazzonia, lì il cuore verde del nostro pianeta, è lì dove questo fenomeno è drammaticamente presente. Chiara, gli attivisti che lottano per la salvaguardia delle foreste fanno un lavoro estremamente pericoloso. Partiamo dalla vostra esperienza, perché mi raccontavi che dovete vivere in condizioni di sicurezza particolari. Beh sì, diciamo questo da quando abbiamo aperto in qualche modo la campagna Amazonia qui in Brasile, le persone, il personale, quantomeno diciamo le persone più esposte come il coordinatore della nostra campagna o i campaigner che molto spesso sono anche i portavoce, no? Quindi le persone più visibili, molto spesso insomma, hanno ricevuto minacce di morte. Un caso eclatante è stato quando all'inizio degli anni 2000, tra il 2000 e il 2002, Greenpeace ha condotto una campagna molto forte che ha portato poi alla fine al bando e al divieto del taglio del mogano nell'Amazzonia brasiliana, quindi all'iscrizione di questo di questa specie all'annesso 1 del CITES, che è questa convenzione internazionale che regolamenta il commercio delle specie minacciate. In quell'occasione la mafia del mogano, come appunto la chiamavamo allora, il coordinatore della campagna Amazzonia Paola Dario, che l'anno scorso tra l'altro è stato nominato eroe delle foreste dalle Nazioni Unite grazie al suo impegno diciamo ventennale nella protezione dell'Amazzonia, aveva ricevuto minacce di morte alla sua famiglia, e da allora chiaramente le misure di sicurezza che prendiamo quando siamo qui sul campo a lavorare sono insomma sicuramente molto, molto stringenti, quindi camminiamo solo ed esclusivamente in auto blindate, anche il nostro ufficio a Manaus ha dei sistemi di sicurezza che all'inizio stupiscono un po', no? Specialmente una persona come me che arriva dall'Italia, nel nostro ufficio di Roma certamente non abbiamo le guardie armate all'ingresso, però insomma sono delle misure necessarie perché lavorare per Greenpeace non è una cosa di cui bisogna vantarsi qui a Manaus. Ecco. Sì. E questo dà anche la misura, gentili ascoltatrici e ascoltatori, di quanto c'è in gioco, perché se insomma i trafficanti si prendono la briga di usare le armi, è evidente, quando usi le armi c'è qualcosa di estremamente prezioso da proteggere. E fra l'altro a leggere la stampa si evince una statistica che, se confermata, che forse tu puoi confermarmi, è drammatica. In Brasile sarebbe ucciso un attivista ambientale ogni settimana, questo almeno fino all'anno scorso, un tributo di vite umane incredibile. Beh, guarda, non saprei dire se il dato uno alla settimana è vero, però obiettivamente è realistico. L'anno scorso tra l'altro c'è stata la situazione si è grandemente esacerbata perché l'anno scorso il Senato brasiliano faceva campagna per modificare il codice forestale, che è questa legge nazionale che stabilisce appunto cosa è legale e cosa no quando si tratta di Amazzonia, e si sono verificati dei grandi scontri e grandi polemiche e dibattiti tra gli attivisti e il settore del legno. È il caso che probabilmente ha colpito più di tutti insomma anche l'interesse dei media, è l'omicidio di Claudio Ribeiro da Silva, che era conosciuto come Zé Castagna, e di sua moglie Maria do Espírito Santo da Silva. E questa coppia aveva un ruolo proprio di guida per gli insediati di questo progetto, che se non sbaglio si chiamava Progetto Agroestrattivista Praia Alta da Piranheira, che era un progetto dove 350 piccoli agricoltori gestivano dei lotti di un massimo di 20 ettari per coltivare in maniera sostenibile dentro la foresta quella che noi conosciamo come noce brasiliana, e questo progetto era stato messo su proprio da Chico Mendes, insomma quindi da un antesignano dell'attivismo in Amazzonia, e Claudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo lottavano appunto proprio per conservare questa foresta dal traffico del legno illegale. Da anni venivano minacciati e denunciavano sia gli organi nazionali che internazionali, non sono mai stati protetti diciamo formalmente, sì. E quindi sono stati condannati a morte ed uccisi il 24 maggio dell'anno scorso. Ecco Chiara, nel tuo lavoro girando in questi luoghi dove il commercio illegale di legno è uno dei business più importanti, quanta collaborazione trovate presso gli enti governativi? Dipende, direi nella norma non tantissima, però un altro caso per esempio… Però succede, può succedere, sì. Per esempio nello stato del Pará, che è uno delle regioni qui in Amazzonia che noi monitoriamo un po' di più perché il tasso di deforestazione è più alto qui, non soltanto per per l'estrazione del legno, ma anche per la conversione della foresta in allevamenti bovini, il procuratore dello Stato del Pará è sempre stato negli anni, diciamo, un alleato nei nostri confronti, nel senso che ogni volta che noi siamo riusciti a produrre con i nostri mezzi, quindi con le nostre mappe satellitari o con le nostre testimonianze dal campo, delle prove di illegalità, il procuratore ha poi dato seguito legalmente ad azioni legali che hanno portato anche ad arresti e multe milionarie. Però nella norma non è sempre così. Sì, sì. Allora, stiamo cercando di tratteggiare quello che è uno dei più lucrosi business al mondo, probabilmente, e in cui sono coinvolti un grandissimo numero di attori, che è gestito da organizzazioni di stampo mafioso e rispetto al quale chi lotta e gli attivisti, come stiamo sentendo dalla voce di Chiara Campione, sono costretti a, come dire, quantomeno difendersi e quindi sopportare anche minacce di morte, in alcuni casi, ahimè, queste minacce si sono concretizzate. Chiara, prima di lasciarti la tua indagine sul campo, il tuo lavoro, forse dovremmo anche spiegare agli ascoltatori che non c'è solo la deforestazione appunto tagliare gli alberi, legni pregiati e poi esportarli illegalmente, ma c'è un problema anche di disboscamento non controllato, oppure disboscamento per poi andare a implantare soia o per magari allevare bovini, che questa, se vogliamo, è l'altra faccia, no, del pericolo che attanaglia le foreste. Beh sì, senz'altro sono i pericoli più grandi, perché parliamo di conversione di ampi tratti forestali, però è molto importante anche comprendere che il taglio del legno illegale è la scintilla che fa partire questo enorme motore della deforestazione, perché per andare a prelevare delle specie che hanno un alto valore commerciale, come qui in Brasile per esempio la cabreuva, lo jatobà, l'ipè, insomma tutti nomi esotici, ma che poi ci ritroviamo negli scaffali dei nostri negozi, in realtà si aprono delle strade che poi rimangono come delle ferite aperte garantiscono l'ingresso di tutta un'altra serie di cose, come ad esempio, come appunto tu dicevi, la conversione di queste aree forestali che poi vengono tagliate a raso e bruciate per essere trasformate in coltivazioni di soia o, come avviene, diciamo, nell'80% dei casi, almeno qui in Amazzonia, allevamenti bovini per la produzione di carne e di pelle, che poi arriva, diciamo, su tutti i mercati internazionali, compreso il nostro. Quindi il taglio illegale del legno, se noi riuscissimo a fermare il taglio illegale del legno, se noi riuscissimo a proteggere queste specie commerciali importanti e fare in modo che restino nella foresta, questi alberi funzionerebbero, avrebbero anche un ruolo di guardiani, perché finché non c'è una strada all'interno di una foresta, quella strada nella maggior parte dei casi è una foresta che rimarrà intatta. E trovo intrigante e affascinante questa immagine degli alberi guardiani della foresta stessa. Ringrazio allora per questa fotografia, questa immagine che ci ha regalato Chiara Campione, responsabile campagna foreste di Greenpeace da Manaus, Amazzonia, Brasile, a cui do il mio saluto, il mio ringraziamento e l'in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E per continuare a tratteggiare, lo dicevo a inizio trasmissione, questa silenziosa guerra che si combatte da decenni, dopo la voce e il racconto di un attivista, eravamo appunto in Amazzonia, a Manaus, in quel cuore verde, ci spostiamo, facciamo migliaia di chilometri, ci spostiamo di continente e andiamo a Maputo, in Mozambico, con Paola Rolletta, giornalista, a cui do il mio buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Ciao Paola. Ciao. Allora, Paola Rolletta ha scritto, fra l'altro, un reportage proprio sul tema, è stato pubblicato in Italia da Popoli, e ha indagato il fenomeno del disboscamento, del traffico illegale di legname proprio in Mozambico, e lì, insomma, se vogliamo, ha delle caratteristiche tutte sue, tutte peculiari. Prima con Chiara Campione abbiamo fatto un discorso abbastanza generale, seppur riferito spesso all'Amazzonia, su quello che è questo grande business. Paola, che legname viene trafficato? Partiamo da questo, partiamo dalla risorsa, dalla materia prima. Che legname viene trafficato in Mozambico? Ma diciamo che in Mozambico gli alberi che vengono abbattuti e che vengono utilizzati per il traffico, per l'esportazione, sono alberi che servono per costruzione di mobili piuttosto pregiati, per costruzione di tavoli, insomma per tutte quelle cose che poi troviamo negli arredamenti dell'Occidente e soprattutto negli arredamenti e nei posti, nelle città cinesi, perché la caratteristica principale del traffico di legname in Mozambico è questo legame stretto con la Cina. Il 90% del legname che viene esportato dal Mozambico va direttamente in Cina. Quindi diciamo che la Cina è un protagonista in Mozambico abbastanza recente e abbastanza recente è anche questo fenomeno così devastante. Dico recente perché diciamo le prime grosse investigazioni che sono state fatte in Mozambico riguardo al traffico illegale di legno risalgono intorno al 2005-2004, quando diciamo è cominciato un po' l'allerta. Sì. E l'allerta è cominciato con un'indagine molto interessante del Forum delle organizzazioni non governative della Zambezia, al nord del Mozambico, che aveva proprio questo titolo molto, molto bello, molto suggestivo, Takeaway cinese, perché appunto era la Cina, era la Cina il principale mercato di legname del Mozambico. Poi tra l'altro diciamo ogni anno, poi da allora, questo è stato nel 2006 più o meno, da allora ogni anno escono investigazioni, report, allerta da varie organizzazioni internazionali e organizzazioni locali, e tutte quante fanno riferimento a questo discorso. E soprattutto la cosa molto intrigante in tutta questa storia è che ci sono delle licenze forestali legali evidentemente nel sì. paese, però la quantità di legname che viene esportato non corrisponde poi alla quantità di legname che viene importato dalla Cina. Quindi ci sono, diciamo, c'è una forbice sì. molto molto ampia che il legname che viene dal contrabbando, quindi dal legname illegale. La guerra segreta del legno, questa preziosa risorsa, noi forse non ci facciamo caso, quanti di noi hanno mobili legno in casa? A volte per quel materiale così apparentemente banale in realtà si muore, si commercia illegalmente, si fanno indagini, è una vera e propria guerra silenziosa che si combatte da decenni in svariati teatri in giro per il mondo. Siamo partiti dall'Amazzonia con Greenpeace e adesso siamo in Mozambico, a Maputo con Paolo Rolletta, giornalista che si è occupata proprio della questione, il suo reportage lo potete leggere su Popoli. Paolo Rolletta stava tratteggiando la presenza cinese in Mozambico. Per chi si interessa di Africa non è certo una novità, e anzi i detrattori, quelli che parlano di neocolonialismo, qui insomma potranno saltare sulla sedia e dire ecco i cinesi vanno a depredare anche il legno africano. Cerchiamo di capire meglio come si sostanzia la presenza cinese in Mozambico. Paola. Dunque, dicevo prima, la Cina è presente in Mozambico abbastanza recentemente, così anche le imprese di origine cinese, le aziende, le ditte di origine cinese sono un fenomeno piuttosto recente, ma sono in forte e costante aumento. Per esempio, soprattutto nel nord del Mozambico, la zona di Cabo Delgado, della Zambesia, di Nampula, è lì dove c'è il maggiore traffico di legname. Queste società cinesi sono registrate normalmente in Mozambico e normalmente sono fatte in società con mozambicani. E quindi i giornali locali, per esempio, denunciano molte volte la connivenza di o alti generali del partito al potere o del partito di opposizione, comunque l'elite, diciamo così, politica derivante direttamente dall'esercito, più che altro dalla guerra, che si allea con commercianti cinesi per fare il traffico di legname, perché certamente Mozambico ha purtroppo un problema serissimo di ordine pubblico, di poca polizia, ha una costa immensa che è difficilissimo da pattugliare, con pochissime risorse, credo che abbia una nave, insomma sì. non riesce a fare il pattugliamento della costa sì. e neanche del territorio in realtà, no? Perché è un paese vastissimo, per cui ci sono queste connivenze. Negli ultimi anni si registrano moltissime imprese cinesi private verso il nord del Mozambico, nelle province al nord del Mozambico. E normalmente funziona così la cosa, non è che loro si sporcano le mani e vanno loro a tagliare gli alberi, no, normalmente lavorano con le comunità locali, perché Mozambico comunque rimane il settimo paese più povero al mondo, anche certo. Se in questo momento è alla ribalta internazionale per le scoperte di carbone, gas, eccetera, però sì. Rimane un paese molto povero, sì. Quindi le comunità, la gente è povera, per cui sì. Loro si rivolgono ai leader locali chiedendo appunto dove ci sono alberi da abbattere, dove sono alberi in sostanza, sì. E poi con vari traffici insomma assoldano delle persone locali che vengono addirittura protette dalla stessa comunità, perché comunque voglio dire la fame è fame, certo. Anche se ricevono pochissimi soldi, ma rispetto a nulla evidentemente per loro è già qualcosa, e quindi per pochi soldi distruggono una delle ricchezze più importanti di questo paese. Paola, dicevo che questo paese che ha sofferto anche abbattimento di alberi, distruzione durante i 16 anni di guerra civile, e adesso si ritrova a fare un'altra battaglia, un'altra guerra interna, e i protagonisti non sono i soldati, non sono i militari, ma sono gli alberi. E proprio di guerra parlavamo, no? Presentando il tema di quest'oggi. Allora, come spesso accade, a nessun luogo lontano, per comprendere meglio un fenomeno noi diamo i numeri. Il 50% del territorio della Zambezia, provincia settentrionale del Mozambico, è ricoperto da foreste. E il 90% di queste, 4 milioni di ettari, è considerata foresta produttiva, cioè area sfruttata per l'estrazione del legname. 58 sono gli ispettori forestali che si occupano della gestione dei terreni forestali e di far rispettare le misure stabilite da parte del SFFB, il Servizio Provinciale delle Foreste e della Fauna. Tra i 2.700 e i 27.000, gli euro previsti per chi viene scoperto dichiarare una differenza tra il volume di legno effettivamente caricato sul camion e quello testimoniato nella scheda di trasporto, oltre ai tentativi di corruzione degli agenti che vigilano sull'esportazione. 13.000 gli euro pagati per chi venisse scoperto lavorare senza una regolare licenza. Nonostante queste multe siano aumentate dal 2011 ad oggi, il costo per l'azienda rimane irrisorio rispetto al prezzo di vendita del legno sui mercati internazionali. Se infatti il costo di riferimento di un metro cubo di legna è di circa 600 euro, in Zambezia viene venduto a 200-300 al metro cubo. 3 euro, 100 metikais, per ogni albero abbattuto è il guadagno dei Pingo Pingo. Così vengono chiamati i tagliaboschi illegali pagati dalla Cina, il primo tra i paesi importatori di legno pregiato africano. E proprio della figura di questi Pingo Pingo si stava parlando, Paola Rolletta da Maputo, Mozambico. Dicevi manovalanza povera, facilmente corruttibile, facilmente assoldabile, perché quando poi hai fame e lo stomaco ti si chiude, insomma l'ecologia poi passa in secondo piano, no? Esattamente, l'ecologia passa in secondo piano. Poi tieni conto, questo dei Pingo Pingo, ma non sono solamente loro ad essere comprati a pochi soldi. Poi c'è il discorso appunto della corruzione, perché comunque il nulla osta che deve essere dato per trasportare legname, quindi per esportare legname, è dogana, servizi provinciali di foreste, la direzione provinciale, eccetera, eccetera. Quindi ci sono vari passaggi, poi c'è il porto, per cui voglio dire, in questa filiera, diciamo, la corruzione va avanti normalmente, purtroppo, per cui anche se negli ultimi tempi è vero che sono stati sequestrati vari camion con alberi, anche navi, eccetera, però come dicevate voi il volume è così grande che insomma tutte queste piccole azioni risultano quasi sono veramente esigue, e poi bisogna dire anche gli alberi in Mozambico, la prima domanda che mi hai fatto, sono degli alberi molto preziosi. Per esempio c'è questo Pau Rosa, che è un albero che è la Berkemia zecheri, che è in via di estinzione. Loro la tagliano in maniera così si taglia e si trasporta. Poi, siccome è proibito trasportare questo, vendere, tagliare e vendere questo tipo di alberi, se ne inventano tutti i colori, tipo bisogna, siccome sui tronchi bisogna mettere delle X, no? con inchiostri che rimangono visibili, sì. In realtà loro usano del gesso che va via, sì. Insomma, trovano una maniera per poter sfuggire alle già fragili condizioni di pattugliamento, sicurezza e polizia che esistono nel paese. Ecco, poi per non cadere nei luoghi comuni che spesso l'Africa ci consegna, però spesso abbiamo appunto forze di sicurezza facilmente corruttibili, mal equipaggiate, molto spesso esigue nel loro numero, e quindi insomma magari all'entrata del porto c'è la pattuglia militare che controlla e con pochi dollari uno riesce a far passare il suo carico di legname. Sì, purtroppo questo accade, anche se, ripeto, negli ultimi tempi sono stati fatti parecchi sequestri, quindi già diciamo che questo è un po' un segnale positivo. Sì, sì. Segnale positivo sono anche le varie azioni che vengono fatte col Ministero dell'Istruzione nelle scuole per cercare comunque di coinvolgere i bambini, perché ovviamente noi dobbiamo pensare che il futuro del paese è nelle mani dei bambini, no? Questi bambini che devono riuscire a capire l'importanza dell'ecologia, degli alberi eccetera. Quindi insomma, qualche azione si fa, però rispetto alla mole, alla quantità enorme di alberi abbattuti illegalmente, questo è molto poco ancora. Poi bisogna aggiungere anche una cosa molto importante, il discorso del carbone, perché ripeto, se il Mozambico ha il gas, ancora la maggior parte della popolazione usa il carbone per poter cucinare. È vero che il Mozambico si sta a ritmi di crescita incredibili, però un sacco di gente ancora vive nelle capanne, quindi bisogna tagliare gli alberi per fare le capanne, bisogna tagliare gli alberi per fare il carbone, per poter mangiare. C'è per esempio una distesa, l'ho scritto anche nel mio articolo, che va dal Mozambico verso il Sudafrica, che praticamente è diventata una zona assolutamente brulla, non ci sono più alberi, sono perché sono stati bruciati per i carbonai, sì, perché sono stati tagliati in maniera indiscriminata. Esatto, dunque se la Zambesi è diventato un po' il simbolo, perché appunto in questo famoso questa famosa relazione che era stata fatta nel 2006, il takeaway cinese che ha portato alla ribalta l'argomento, però diciamo in parecchie zone del Mozambico la situazione è piuttosto brutta, anche perché l'inventario forestale, l'ultimo che è stato fatto è del 2008, per cui anche l'investimento che si fa da parte dello Stato per poter salvaguardare gli alberi, la vegetazione, è ancora molto poco. E certo, perché poi è anche un problema, no, di priorità, si diceva la manovalanza, quella più povera, i pingo pingo, insomma hanno fame, quindi vai tu a parlare di ecologia o di rispetto dell'ambiente quando il problema è portarsi a casa una pagnotta. E poi ci sono quelle fragilità strutturali, tutte africane, ai noi, che ritroviamo in parte anche in Mozambico, uno stato che ha una sovranità che è un scricchiola, diciamo, ecco, e quindi... certe campagne. Il Mozambico, diciamo, potrebbe essere un po' paradigmatico per questo discorso, perché è ancora piuttosto fragile, non ha le condizioni per poter lottare contro il fenomeno e è ancora un paese povero. Nonostante gli indici che vengono sbattuti a destra e a sinistra di crescita dell'8% anno eccetera, però insomma si sa bene che questi indici non è che corrispondano poi effettivamente alla realtà vera del paese. No, certo, poi la ricaduta sulla stragrande maggioranza della popolazione, magari nelle lontane aree rurali, no? Perché Maputo magari è una cosa, la capitale ha una crescita di un certo tipo, e poi i piccoli villaggi nelle zone rurali, insomma, quello è tutta un'altra storia. Grazie mille Paolo Rolletta per la tua testimonianza, giornalista, vive a Maputo in Mozambico e ci ha raccontato questo takeaway cinesi, la guerra del legno anche lì in Mozambico. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E chissà, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, se da oggi guarderete, toccherete il tavolo di casa vostra, quello che suona così diversamente dopo aver sentito di questa guerra per il legno. Grazie per essere stati all'ascolto, i ringraziamenti vanno anche a Mira Lucchetti, Isotta Scenne in redazione, Fabio Cantadori che ha dato musica e ritmo a questa puntata. L'appuntamento è per domani, ore 13:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.